la notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre. In cammino verso Betlemme. Angelus 22 dicembre 2013. Ci disponiamo allora a celebrare il Natale contemplando Maria e Giuseppe. Maria, la donna piena di grazia, che ha avuto il coraggio di affidarsi totalmente alla parola di Dio. Giuseppe, l'uomo fedele e giusto, che ha preferito credere al Signore invece di ascoltare la voce del dubbio e dell'orgoglio umano. Con loro camminiamo insieme verso Betlemme. Mistero d'amore. Angelus, 18 dicembre 2016. La liturgia di oggi, che è la quarta e ultima domenica di Avvento, è caratterizzata dal tema della vicinanza. La vicinanza di Dio all'umanità. Il brano del Vangelo ci mostra due persone, le due persone che più di ogni altra sono state coinvolte in questo mistero di amore: la Vergine Maria e il suo sposo Giuseppe. Mistero d'amore, mistero di vicinanza di Dio con l'umanità. Maria è presentata alla luce della profezia che dice: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. L'Evangelista Matteo riconosce che ciò è avvenuto in Maria, la quale ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo. Il Figlio di Dio viene nel suo seno per diventare uomo e lei lo accoglie. Così, in modo unico, Dio si è avvicinato all'essere umano prendendo la carne di una donna. Dio si avvicinò a noi e ha preso la carne di una donna. Anche a noi, in modo diverso, Dio si avvicina con la sua grazia per entrare nella nostra vita e per offrirci in dono il suo figlio. E noi che cosa facciamo? Lo accogliamo? Lo lasciamo avvicinarsi? Oppure lo rifiutiamo? Lo cacciamo via? Come Maria, offrendo liberamente se stessa al Signore della storia, gli ha permesso di cambiare il destino della umanità, così anche noi, accogliendo Gesù e cercando di seguirlo ogni giorno, possiamo cooperare al suo disegno di salvezza su noi stessi e sul mondo. Maria ci appare dunque come modello a guardare e sostegno su cui contare nella nostra ricerca a Dio, nella nostra vicinanza a Dio, in questo lasciare che Dio si avvicini a noi e nel nostro impegno per costruire la civiltà dell'amore. L'altro protagonista del Vangelo di oggi è San Giuseppe. L'Evangelista mette in evidenza come Giuseppe da solo non possa darsi una spiegazione dell'avvenimento che vede verificarsi sotto i suoi occhi, cioè la gravidanza di Maria. Proprio allora, in quel momento del dubbio, anche di angoscia, Dio gli si fa vicino, anche a lui, con un suo messaggero, e egli viene illuminato sulla natura di quella maternità. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Così, di fronte all'evento straordinario che certamente suscita nel suo cuore tanti interrogativi, si fida totalmente di Dio che gli si avvicina e, seguendo il suo invito, non ripudia la sua promessa, ma la prende con sé, sposa Maria. Accogliendo Maria, Giuseppe accoglie consapevolmente e con amore colui che in lei è stato concepito per opera mirabile di Dio, a cui nulla è impossibile. Giuseppe, uomo umile e giusto, ci insegna a fidarci sempre di Dio che ci si avvicina. Quando Dio ci si avvicina, dobbiamo fidarsi. Giuseppe si insegna a lasciarsi guidare da Lui con volontaria obbedienza. Un legame molto stretto. Angelus, 1 gennaio 2017. Nei giorni scorsi abbiamo posato il nostro sguardo adorante sul Figlio di Dio nato a Betlemme. Oggi, solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, rivolgiamo gli occhi alla Madre, ma cogliendo l'una e l'altro nel loro stretto legame. Questo legame non si esaurisce nel fatto di aver generato e nell'essere stato generato. Gesù è nato da donna per una missione di salvezza e sua madre non è esclusa da tale missione, anzi vi è associata intimamente. Maria è consapevole di questo, pertanto non si chiude a considerare solo il suo rapporto materno con Gesù, ma rimane aperta e premurosa verso tutti gli avvenimenti che accadano attorno a Lui. Conserva e medita, scruta e approfondisce, come ci ricorda il Vangelo di oggi. Ha già detto il suo sì e dato la sua disponibilità ad essere coinvolta nell'attuazione del piano di salvezza di Dio, che ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mano vuote. Ora, silenziosa e attenta, cerca di comprendere che cosa Dio vuole da lei, giorno per giorno. Avete ascoltato La notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre.